Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ho la pressione bassa, schiaffeggio contro voglia la sveglia, mi alzo e vado a pisciare di pessimo umore. Da anni la scena è sempre la stessa, per forza. Ho la pressione bassa. Vi siete riconosciuti? Allora restate, questo è il vostro momento, anzi il nostro, perché anch'io ho la pressione bassa e quando mi lamento della stanchezza mattutina, della difficoltà a carburare, di improvvisi anche repentini giramenti di testa, mi sento dire: ma di che ti preoccupi? È la malattia di chi vive a lungo. Allora rallegriamoci dunque, ma intanto chiedo, ci aiutate a tirarci un po' su quando la pressione ci tira giù? In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo della Fondazione Dognocchi di Parma e all'Università di Parma, esperto di prevenzione e riabilitazione cardiometabolica e autore con Claudio Rinaldi di Super Salute. Buongiorno dottor Gualerzi. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti voi. Allora, si occupi anche di noi, è vero, la pressione bassa non è un fattore di rischio, ma diciamo così, a fatica. Beh, innanzitutto devo dire complimenti perché ho sentito che anche lei soffre di pressione bassa. Diciamo che a soffrire di pressione bassa di solito sono i teenager, quindi significa che il suo fisico è proprio quello di un teenager. No, a parte gli scherzi, diciamo che la pressione, innanzitutto definiamo pressione bassa una pressione sotto, quando scende sotto i 110, sotto i 100 di massima e sotto i 70, 60 di minima, anche se una regola precisa non c'è. Non è pericolosa, ma diciamo che obiettivamente qualche sintomo lo dà. Se dovessimo fare un identikit tipico delle persone che soffrono di pressione bassa, diciamo appunto i soggetti più giovani, principalmente le femmine, nei mesi estivi, quando appunto il caldo facilita appunto il fatto di far scendere la pressione, e che magari persone che si dimenticano o che non bevono sufficiente durante la giornata, ecco. Allora, a chi si riconosce come nella situazione e quindi ha la pressione bassa, 800240024, potete seguirci su Facebook, su Twitter, l'hashtag di oggi è Che pressione hai, perché non parleremo naturalmente solo di pressione bassa, potete come sempre scriverci al 349-238-6666. Dottor Gualerzi, ma se non fa male, perché ci fa stare male? Beh, diciamo che il fatto che non faccia male non significa che non dia delle sensazioni spiacevoli. In effetti ci fa sentire stanchi, no? Può dare dei problemi visivi, la maggior parte delle persone denuncia, soprattutto quando si alza velocemente in piedi, di non vederci bene, di vederci appannato, addirittura di vedere nero con qualche luccichio, quindi queste cose soprattutto spaventano. Il motivo è legato al fatto che la pressione è una forza, è la forza che il sangue ha, no? All'interno delle nostre arterie. E quando ad esempio ci alziamo in piedi, il fatto che il sangue non abbia abbastanza forza non riesce ad arrivare negli organi che stanno al di sopra del cuore, come la testa. Ecco perché ci crea questo stato di intontimento, no, di spossatezza, e dà questi problemi visivi, perché essendo gli occhi, no, collocati al di sopra del cuore, a loro arriva meno sangue, quindi sono quelli che soffrono di più di questi problemi, così come il cervello che, diciamo, vorrebbe più sangue in quel momento ma non riesce ad averlo e quindi dà questi sintomi di obnubilazione. Insomma, è difficile snebbiarlo. Allora chiedo ai nostri ascoltatori, come vi svegliate alla mattina? 800240024. Dottor Gualerzi, la pressione si muove, si alza, si abbassa, e durante la giornata almeno le persone che hanno la pressione bassa dovrebbero imparare a cogliere il momento. Sì, diciamo che ci sono dei momenti come la mattina presto che hanno anche per l'ipotesi l'oro in bocca. Sì. E quindi bisogna riconoscere i momenti, insomma, adatti e quelli meno adatti. Quindi, dottor Gualerzi, proviamo a seguire una giornata tipo. Sì, dipende, i momenti, quelli più adatti, quelli meno adatti, dipendono molto dal ritmo interno dei nostri ormoni, no? Sì. E quindi conoscere questi ritmi ci aiuta a sfruttare meglio i momenti più propizi e invece a stare attenti in quelli che lo sono meno. Durante il mattino abbiamo questo ormone che è il cortisolo, che è l'ormone un po' dello stress, se vogliamo, quello che ci aiuta a metterci in moto, che ci garantisce, diciamo, valori pressori più alti, no? Mentre subito dopo aver fatto i nostri pasti, dopo la colazione, dopo, diciamo, il pranzo, dopo la cena, gli ormoni digestivi richiamano sangue all'interno dell'intestino e quindi fanno abbassare ulteriormente la pressione. Quindi ecco che dopo i pasti è un momento molto delicato per chi soffre di pressione bassa. In questo caso un buon caffè può aiutare dopo il pasto a ridurre i sintomi, a tirarci che si verrebbero su, certo, a manifestare. Un altro momento, ad esempio, critico potrebbe essere alla fine di un allenamento. Sappiamo che quando finiamo l'allenamento siamo molto vasodilatati per effetto appunto dell'attività fisica, però quando finiamo di allenarci le pulsazioni scendono e, unite a questa valutazione e a vasodilatazione che perdura nel tempo, no, possiamo avere degli abbassamenti anche repentini della pressione. Quindi dobbiamo stare attenti, allungare molto la fase di defaticamento, magari anche con qualche esercizio a terra, un po' di stretching che aiuta a riportare la pressione in condizioni normali. Dottor Gualerzi, anche quando stiamo fermi in piedi o molto tempo seduti possiamo avere difficoltà? Sì, stare sia nella stazione retta, quindi fermi in piedi immobili, ma anche molto tempo seduti davanti al computer non aiuta, perché appunto non avere contrazioni muscolari come in questi due casi porta a una riduzione di quel tono nervoso che aiuta appunto ad alzare la pressione. Anche per questi diamo un consiglio: chi è obbligato a stare molto tempo fermo, no, sarebbe bene che ogni tanto facesse qualche contrazione muscolare. Delle volte un consiglio banale può essere quello anche di stringere forti i pugni, ci si può aiutare per anche rendere la cosa più piacevole con una pallina, ad esempio di gomma da tenersi in tasca, e stringerla forte nei momenti in cui si sente un pochino la pressione scendere, quando iniziamo ad avere i primi sintomi della pressione bassa. Quindi teniamo a portata di mano una pallina se la nostra pressione è un po' bassa. Andiamo a sentire che cosa ci racconta Emiliano, ci chiama da Milano all'800240024. Benvenuto e buongiorno. Deve abbassare la radio, Emilio, anzi. Emilio? Ah, ecco, Emilio, sì, Emiliano. Non Emiliano. Buongiorno. Sì, buongiorno. Niente, io presumo di soffrire appunto di pressione bassa, penso. Però a volte ho delle sensazioni strane, come se il cuore, non lo so, mi batte in modo irregolare. Ma me lo fa ogni tanto, però mi capita spesso comunque questa cosa. Io volevo sapere se appunto è dovuto alla pressione bassa o magari il lavoro, attenzione, che ne so io cosa può essere. Emilio, grazie per la domanda. Se volete raccontarci come vi svegliate la mattina, come vi sentite, se la vostra pressione è particolarmente bassa, parleremo naturalmente anche di pressione alta, che a differenza della pressione bassa tende a non dare segnali e sintomi, ma il dottor Gualerzi vi metterà un po' la pulce nell'orecchio. Dottor Gualerzi, volevo chiederle, c'è una relazione tra i valori della pressione e il battito cardiaco? Può essere colpa della pressione o invece è più imputabile allo stress, alle condizioni di ansia? Beh, lo stress e l'ansia c'entrano sempre, quindi non possiamo dire di no. In realtà quando abbiamo la pressione bassa il cuore tende ad andare più veloce per compensare, quindi per far girare più velocemente il sangue, se così possiamo dire. Quindi è vero che le persone che soffrono di pressione bassa possono avere le pulsazioni più alte. Il signore che ha appena chiamato diceva che aveva il battito irregolare, anche in questo caso non è così scontato che ci sia una relazione fra la pressione e le aritmie. Può essere un problema banale, ma non c'è questo legame diretto. Vogliamo dare un'indicazione? Un'indicazione per le aritmie, dice, per questi battiti irregolari. Beh, in realtà bisognerebbe capire quanto sono irregolari, quando sono irregolari. Ad esempio, molte persone, non c'entra con quello che stanno dicendo adesso, però che hanno le pulsazioni irregolari ce l'hanno banalmente perché hanno dei disturbi digestivi. Sì. Quindi, senza volere, cioè uscendo dal campo cardiologico, diciamo che molto spesso la digestione lenta o comunque anche un po' di gastropatia possono portare molto frequentemente ad avere delle estrasistole e dei battiti irregolari. Leggo un messaggio di Laura a proposito di pressione bassa. Il marito che porta il caffè a letto aiuta, ora sto educando i figli, ci scrive al 349-238-6666. Andriano, sono svenuto, forse un calo di zuccheri. Su, forza, veramente pazzo, è tutto a posto come prima, mi è passato, ti faccio un caffè. Allora, dottor Gualerzi, abbiamo suggerito la pallina, lei ha suggerito la pallina e il caffè. Che cosa possiamo fare d'altro per tirarci su. I sali sono passati di moda, anche se avevano il loro fascino, lo zucchero non credo vada bene, il sale che come sappiamo fa salire la pressione non conviene. Lei che ci dice? Beh, diciamo che la regola più basica, più, diciamo, più semplice resta quella di bere, quindi diciamo che abbiamo l'acqua, resta il rimedio sicuramente più semplice, quindi alle persone che soffrono di pressione bassa bere un po' di più è, diciamo, un ottimo consiglio. Oggi abbiamo a disposizione diverse piante dette adattogene perché, diciamo, ci aiutano e stimolano l'organismo ad adattarci nelle varie situazioni. Le più famose sono ad esempio il ginseng, che lo sì, conosciamo da tanto tempo. Un pochino più moderna è la rhodiola rosea, no? Sono soprattutto erbe che migliorano la capacità, appunto, di adattamento e proprio ci aiutano anche a combattere o comunque renderci più resistenti ai cambiamenti climatici. Abbiamo sì, appena detto come, appunto, il passaggio di stagione sia un momento delicato per chi soffre di pressione bassa, no? È un po' più nuovo ancora il melograno, perché recenti studi hanno indicato come il succo di melograno ricco di vitamine ha proprio delle proprietà toniche, no? Uh-huh. E quindi aiuterebbero molto il sistema cardiovascolare a stabilizzare la pressione ed evitare che scenda. Insomma, infine, ci aiuta a ingranare la marcia. Infine? Sì, aiuta proprio a ingranare la marcia. Infine promuoverei la maca, che è una pianta, diciamo, tipica del Perù, che veniva utilizzata principalmente là, ormai è stata sdoganata dappertutto e si trova abitualmente anche da noi, e che è famosa per i suoi contenuti proteici, anche qui abbiamo molti sali minerali, molte vitamine, no? Ed è un potente energetico. Mm. Anche questa, essendo una pianta adattogena, diciamo che ci aiuta a fornirci l'energia, a stimolare l'organismo quando ne abbiamo bisogno. Quindi è quasi, diciamo, una pianta intelligente che ci aiuta ad avere energia quando l'assumiamo e se manca energia nel nostro organismo. Quindi diciamo che è un farmaco energizzante, una pianta energizzante che aiuta proprio quelli che soffrono di pressione bassa. Come si consuma, dottor Gualerzi? Esistono tante formulazioni, una cosa interessante potrebbe essere anche, diciamo, formulazioni in polvere, perché uniremmo l'utile al dilettevole, nel senso che un cucchiaio di maca in polvere da abbinare magari un bel frullato energizzante insieme a carote, appunto il melograno, come abbiamo appena detto, uh-huh, è un buon succo di pompelmo, aiutano a idratarci e nello stesso tempo a tonicizzarci e a far risalire leggermente la pressione. Bene, mi sento già più in forza. Allora, se avete la pressione bassa, componete il nostro numero verde 800 24 00 24, consigli per tirarci su, dottor Gualerzi. Sì, l'importante è non attivarci troppo, perché in realtà lo stress fa male anche chi soffre di pressione bassa, e al contrario il rilassamento può aiutare anche le persone che soffrono, appunto, di pressione bassa. Quindi diciamo che le tecniche di rilassamento giovano, sono amiche della nostra pressione. Seleziona una parola come pace o una breve frase che ti trasmetta emozioni positive. Siediti in una posizione comoda e chiudi gli occhi. Rilassa i muscoli partendo dai piedi e salendo ai polpacci, alle cosce, all'addome, fino al torace, al collo e alla faccia. Respira lentamente attraverso il naso, con l'addome, e mentre espiri, ripeti mentalmente la parola o la frase che hai scelto. Se altri pensieri ti distraggono, non preoccuparti e cerca semplicemente di riportare l'attenzione sulla frase scelta. Fai questo esercizio per 10 minuti al giorno. Tratto dal blog del dottor Filippo Ungaro, che è in linea con noi. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Nicoletta, buongiorno a tutti. Vede che la seguo ovunque. Anche sul blog. Quindi, diciamo, meditate, gente, meditate. La ricerca invita a farlo. Direi proprio di sì, devo dire che anche io mi sono avvicinato alle tecniche di rilassamento anche grazie a mia moglie, che è psicologa e che mi ha convinto e insegnato a dedicare più tempo e spazio anche alla testa, e devo dire che effettivamente questo viene confermato da sempre più ricerche. Ne abbiamo parlato recentemente anche con Angelo Gemignani, no, nella trasmissione, certo, una trasmissione scorsa dell'Università di Pisa. Molti studi indicano come dal controllo della nostra testa, delle emozioni positive, dalla riduzione dello stress possano scaturire tutta una serie di miglioramenti anche organici insospettabili. Parlando poi di pressione arteriosa, direi in modo particolare, perché se c'è una cosa strettamente collegata con lo stato emotivo è proprio la regolazione pressoria, così come la funzionalità del sistema gastrointestinale, e non a caso sistema gastrointestinale e sistema cardiocircolatorio sono punti molto centrali nelle sintomi di moltissime persone, negli stati di tensione, negli stati d'ansia, eccetera. Quindi certamente è una cosa a cui tutti noi dedichiamo troppo poco spazio, anche per, come posso dire, per una sorta di negligenza da parte della scienza occidentale nei confronti di questi aspetti che abbiamo sempre visto come più olistici, orientali, e che invece sono confermati da moltissima ricerca ad altissimo livello oggi. Dottor Ungaro, prima di salutarci, la meditazione, le tecniche di rilassamento aiutano anche a invecchiare bene? Ah, senza dubbio, se c'è una caratteristica veramente ricorrente nei longevi sani è quella di avere un atteggiamento positivo nei confronti della vita, delle difficoltà, e di essere così, da un punto di vista genetico quasi, poco predisposti all'ansia, alla tensione e alla depressione. Allora, siccome non tutti noi abbiamo quella genetica così favorevole, noi dobbiamo lavorarci un pochettino di più, e queste tecniche ti permettono in pochissimi minuti al giorno di cambiare veramente la tua attitudine mentale, con dei risvolti anche sull'invecchiamento molto importanti. Ecco, l'importante è provarci. Lei suggerisce, anche sulla base delle ricerche, 10 minuti al giorno. Si può iniziare con 5 minuti e poi progressivamente aumentare il tempo, ma soprattutto, dottor Ungaro, regalarci questi minuti più volte nel corso della giornata. Questo è un po' il segreto. Sì, infatti noi spesso parliamo di micropause, proprio un concetto che vuol dire suddividere in piccolissime pause nel corso della giornata, anche di pochi secondi o di qualche minuto, dedicate proprio a questo risettaggio dei pensieri e dell'umore. È una tecnica che si può imparare abbastanza facilmente, poi è chiaro che occorre un po' di buona volontà per farlo, ma certo, insomma, si può fare anche seduti in metropolitana, voglio dire, nessuno si accorge, ecco. Grazie dottor Ungaro per essere stato con noi. A voi, a presto, buona giornata. Dottor Gualerzi, allora possiamo dire che le tecniche di rilassamento giovano a chi la pressione è bassa e a chi la pressione è alta, e a loro dedicheremo, alle persone che sentono, sanno di avere la pressione alta oppure hanno dei segnali che possono magari suggerire di andare a misurare la pressione, dedicheremo la seconda parte della trasmissione. Intanto rispondiamo a Monica che ci chiama da Lucca e a Gianluca da Roma. 800 24 00 24, benvenuta Monica. Sì, buongiorno. Buongiorno. Bassa o alta? Bassa. Da quando, dopo i parti che ho avuto, la pressione si è abbassata notevolmente, sia d'inverno che d'estate. Quindi vivremo a lungo, Monica. E infatti volevo chiedere al dottore come mai io, per esempio, la mattina, appena mi sveglio, mi devo alzare molto lentamente, sì, perché sennò mi gira la testa. Se mi chino per raccogliere qualcosa in terra, idem, cioè mi devo alzare piano piano perché sennò ho un leggero sbandamento. E poi mi è successo due episodi dove nel letto mi girava la testa sia a occhi chiusi che a occhi, aperti. Ho fatto tutte le analisi per vedere la stabilità, però non è risultato niente, se non che dice la pressione probabilmente è bassa. Responsabili, dottor Gualerzi, grazie Monica, potrebbero essere anche i famosi otoliti a cui abbiamo dedicato intere puntate, non intere perché noi saltiamo sempre un po' di qua e un po' di là, comunque ne abbiamo parlato con otoneurologi, ma dottor Gualerzi, un'indicazione per Monica che descrive una situazione molto comune. Sì, è molto comune ed è quello che abbiamo detto anche prima, in realtà lei accusa questi sintomi soprattutto quando si alza dal letto, quando si china. In realtà è proprio un problema gravitazionale, quando cambiamo posizione, passiamo da una posizione supina o seduta a una posizione in piedi, diciamo che il sangue per gravità tende ad andare verso i piedi e quindi a venire a mancare nella parte appunto che sta sopra il cuore, quindi negli organi che stanno dal collo in alto, ecco, negli organi sopra il collo ci sono anche quelli che regolano l'equilibrio, e quindi anche uno scarso apporto di sangue a quegli organi dà senso di sbandamento, quindi senza voler andare a scomodare gli otoliti o patologie diciamo più chiare che possono essere diagnosticate da una visita otorino-laringoiatrica, diciamo che i sintomi sono quelli tipici. Bisogna... Non devono spaventare, ma logicamente fanno stare un po' male, un po' peggio. E può usare uno di quei consigli che abbiamo dato prima. Certo, Gianluca ci chiama da Roma, rapidamente prima dei mercati, buongiorno, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, grazie, saluto lei e il suo ospite. Grazie. Allora io volevo solo un consiglio, Io pratico molto sport, 3 volte a settimana, il lunedì vado a correre, il mercoledì cammino e il sabato vado in piscina. Di conseguenza curo molto la mia alimentazione, cioè mangio totalmente sciavo. Quindi quando mi sottopongo ai 2 controlli medici che faccio tutti gli anni, logicamente mi viene riscontrata una pressione bassa. Sì. Volevo chiedere, a lungo andare può diventare un problema o no? La ringrazio e buon proseguimento. Grazie Gianluca. Dottor Gualerzi, 3 giorni alla settimana, allenamenti molto calibrati, mangia bene, la pressione bassa, buon segno, ma alla fine potrebbe... No. È un buon segno e basta, buon segno punto, direi che è proprio quello che la maggior parte delle persone dovrebbe volere ottenere. Quindi direi come che si dice, fate come Gianluca. Essere e benessere. E vado su, e vado giù, e vado su. Su e giù come la nostra pressione, che ha un andamento fisiologico, ci sono dei picchi di pressione, poi la pressione si abbassa, ma quello che noi dobbiamo evitare proprio sono le forti escursioni, chiamiamole così, dottor Gualerzi, e questo è uno dei vantaggi delle tecniche di rilassamento, evita proprio gli sbalzi. Sì, direi che infatti l'organismo non è in grado di riconoscere che pressione c'è nel suo interno, ma spesso stiamo male quando la pressione è molto variabile, quindi stabilizzarla è la prima regola per comunque stare bene, e le tecniche di rilassamento aiutano proprio a fare questo. Ci sono alcuni ascoltatori che al 349-238-6666 mi scrivono: ma questa pallina con la pressione bassa come la usiamo? Allora, è uno dei rimedi che ha suggerito il dottor Gualerzi per chi come me tende ad avere la pressione bassa e quindi al mattino fa un po' fatica, siamo un po' svenevoli, ci alziamo all'improvviso, ci gira la testa, insomma le abbiamo un po' sempre tutte noi, e però vivremo più a lungo. Dottor Gualerzi, questa pallina è una cosa da tenere a portata di mano, perché abbiamo detto che attivare, no, la muscolatura può essere utile per ripigliarci e ritornare un po' su. Sì, fare questo movimento, nel senso stringere forte il pugno, stringendo dentro il pugno qualcosa, aiuta a stimolare il nostro sistema nervoso simpatico, quello che fa salire la pressione, sì, no? Senza vasodilatare, perché una contrazione prolungata nel tempo, tipo l'attività fisica aerobica, no? Genererebbe nel contempo anche una vasodilatazione. Invece stringendo forte, facendo quelli che vengono chiamati movimenti isometrici, cioè un accorciamento stabile della muscolatura, aiuta a generare un rialzo transitorio della pressione, quindi a dare immediatamente benessere. Insomma, dottor Gualerzi, questo sistema simpatico lavora per noi, fa il tifo per noi. La pressione bassa, dottor Gualerzi, è schietta, l'abbiamo vista, noi possiamo descrivere i segnali che ci fanno sospettare che la nostra pressione sia andata giù. La pressione alta, invece, è molto più subdola, tanto che, secondo i dati, un italiano su 4 è ipertenso, ma non sa di esserlo. Ma, diciamo, noi potrebbe sapere, perché ci sono degli indizi, dottor Gualerzi? Beh, innanzitutto dobbiamo ricordare di misurarsi la pressione, quindi al di là degli indizi bisogna misurarsi la pressione, prenderla come abitudine. Diciamo che i sintomi più tipici, più frequenti, restano il mal di testa e il fischio nell'orecchio, quello che viene chiamato in termine tecnico gli acufeni. Restano, appunto, come dicevo, frequenti, ma assolutamente non sono specifici, quindi chiunque può soffrire di mal di testa e avere un fischio nelle orecchie pur senza avere la pressione alta. Quindi, no. Invece ci sono alcune condizioni più caratteristiche che non solo favoriscono, possono essere nello stesso tempo, quindi favorire ed essere spia della pressione alta, come ad esempio i disturbi respiratori del sonno. Intendiamo per disturbi del sonno il russamento o, ancora peggio, le apnee, che sono appunto delle condizioni che, non consentendo all'organismo di rilassarsi, diciamo, in maniera appropriata durante la notte, tendono immediatamente, cioè nelle prime fasi di questa problematica, far alzare la pressione durante le ore notturne. E poi, da avercele alte solo nelle ore notturne, la pressione resta alta anche durante il giorno, e quindi possiamo proprio definire come i disturbi del sonno siano una causa-effetto della pressione alta. Quindi chi russa o chi ha le apnee dovrebbe, appunto, stare particolarmente attenzione alla propria pressione. Ecco, insomma, se dormite accanto ad una persona che emette questi suoni, diamo un messaggio chiaro, dottor Gualerzi. Se russi la tua pressione si alza, parlane con il tuo medico, ma intanto, dottor Gualerzi, che cosa si può fare? Perché il russamento va affrontato con un approccio multidisciplinare, otorino, neurologo, esperto del sonno, perché il problema può essere causato da ragioni diverse. Ma nel frattempo proviamo a ridurre il russamento. Come? Sì, diciamo che appunto è un problema multidisciplinare, però banalmente possiamo dire che, avendo notato e sappiamo che principalmente questi disturbi avvengono quando dormiamo in posizione supina, cioè con la pancia in alto, quindi appoggiati sulla schiena, possiamo cercare di far dormire queste persone su un fianco. Questa è la posizione che facilita di più e che riduce più di tutte appunto il russamento e le apnee, e per fare questo si possono usare dei rimedi abbastanza banali, come quella di cucire una pallina da tennis nel dorso del pigiama, in modo tale che se involontariamente durante la notte ci andiamo a riposizionare in posizione supina, avendo questo fastidio, no, nella schiena causato dalla pallina, andremo a metterci involontariamente sul fianco senza aver bisogno che nessuno si svegli per noi per rimetterci in questa posizione. Quindi basta fare una tasca sul pigiama e poi quella pallina che magari gli stiamo con un partner che ha la pressione bassa, ci facciamo dare la sua pallina che usa di giorno e la mettiamo nel pigiama. Senta, dottor Gualerzi, ci sono altri campanelli d'allarme, altri segnali che possono farci capire che è arrivato il tempo di misurare la pressione, perché potrebbe avere dei valori superiori alla media. Quali? Sì, ad esempio, facendo una distinzione fra uomo e donna, in questo caso possiamo dire che le donne avvertono la pressione più con uno stato di agitazione, di nervosismo e appunto di cardiopalmo, quindi il cuore, diciamo, irregolare o molto veloce, oppure uno stato di ansietà interna, è più tipico delle donne, no, quando hanno la pressione alta. Quindi se compaiono questi sintomi è bene misurarsi la pressione. Mentre negli uomini a volte la pressione alta si fa sentire perché può portare a disturbi sessuali, quindi diciamo che l'impotenza può essere il primo campanello d'allarme dell'avere la pressione alta, quindi attribuiamo alla pressione alta questo fenomeno, diciamo, dell'impotenza, e quindi chi avverte questi problemi dovrebbe porre particolare attenzione alla propria pressione. Chiamate 800 24 00 24, un numero verde perché la pressione se la sente giù e perché la pressione invece da questo momento sospetta di averla su. Abbiamo in linea con noi Catiuscia da Roma e Gabriele da Bellaria. Catiuscia, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, io praticamente ho sempre sofferto di un po' di pressione bassa, fino ai 25 anni circa, adesso ne ho 32, e ultimamente invece ho cominciato a sentire un mal di testa quasi quotidiano, e ho misurato la pressione e praticamente mi risulta la mattina una minima di 85 e la sera invece arriva a 95, mentre la massima rimane sempre sui 110. E volevo sapere se questi valori sono eccessivi, cioè se comincia a diventare pressione alta o se è ancora nella norma. E io ultimamente mi è stata diagnosticata una sinusite, quindi, come diceva prima il dottore, penso che sia anche collegata ai disturbi della respirazione notturna, certo. Sì. Grazie Catiuscia. Dottor Gualerzi, grazie a voi. Una massima e una minima, questi sono i due valori. La minima di Catiuscia si muove un po', è normale? I valori che ha detto sono ai limiti della norma, quindi non sono ancora patologici, soprattutto all'interno di una persona sana. Certo. Sappiamo che i valori pressori hanno dei limiti, però questi limiti sono anche, diciamo, dipendono molto da chi li ha, nel senso che se una persona molto ad alto rischio, i limiti si abbassano. Diciamo che in un giovane è più normale trovare dei valori della minima tendenzialmente più alti. Non mi preoccuperei, comunque anche lì l'attività fisica potrebbe aiutare ad abbassarla. D'altra parte è normale che con l'aumentare dell'età, anche se la radioascoltatrice era molto giovane, comunque la pressione tende ad aumentarsi, questo diciamo che è una tendenza fisiologica comune a tutti. Quando supera certi valori poi bisognerebbe comunque prendere rimedio, il primo è sempre quello di modificare il proprio stile di vita. Esatto, fare un po' di attività fisica e provare a cambiare stile alimentare. Essere e benessere. Sento sempre delle gran formiche nelle gambe, nei piedi. Insomma, dottore, mio, sono proprio una tiella vecchia. Sarà un fatto di circolazione, signora. Lo credo anch'io, veramente ho avuto sempre la pressione bassa. Sì? Quant'è? Aspetti. Sentiamolo. Ai. 120, signora. È un po' bassa, dovrei avere 130, 140. Chi l'ha detto? Meglio bassa che alta, no? Meglio bassa che alta. Dottor Gualerzi, c'è un valore per la massima e uno per la minima. Vogliamo però capirci, mettere in relazione questi due valori? Sì, diciamo che il cuore battendo ad intervalli regolari genera due tipi di pressione. La massima, chiamata anche sistolica, corrisponde al momento in cui il cuore pompa il sangue nelle arterie, quindi è la forza che viene impressa dalla pompata del cuore al sangue. Mentre la pressione minima, nota anche come diastolica, è la pressione nelle arterie quando il cuore si rilassa, cioè è la forza che rimane al sangue quando il cuore si sta riempendo, quindi quando non si sta contraendo. E diciamo che in passato si è alternato un po' di fasi in cui si dava più importanza all'una all'altra, diciamo meglio avere state molto attenti alla minima, poi in alcuni anni è andata più di moda la massima. Oggi possiamo affermare abbastanza in modo, diciamo, scientifico che, diciamo, la pressione minima rappresenta un dato più per gli addetti ai lavori, quindi sì, con un significato meno patologico, ecco, mentre il valore da tenere sotto controllo è quello della massima. E quindi diciamo che puntiamo sui 120. Sì, 120-80 è la pressione giusta, corretta ad ogni età per qualsiasi persona, e fino a 140-90 diciamo che sono valori accettabili per una persona sana. Perché invece se poi questa persona comincia ad avere, come dicevamo prima, certo, altre patologie, deve parlare già 140-90 diventa già una pressione da magari controllare o certo, da curare. Dottor Gualerzi, se i valori della pressione si muovono, si alzano un po', il nostro medico curante ci dice un po' di attività fisica, stia attenta a quello che mangia, riduca il sale. Dottor Gualerzi, l'attività fisica però, abbiamo capito e te lo state dicendo da parecchio tempo, deve essere un po' calata, no? Per il caso, ad personam. Per far scendere la pressione, che tipo di attività fisica bisogna fare? Con quale intensità? E che differenze ci sono, ad esempio, dall'attività fisica che invece si fa per mantenersi in forma, anzi devo dire di più, per calare un po' di peso? Sì, è molto importante questa domanda, perché in realtà è la cosa che nessuno fa o che non viene prescritta in modo adeguato. L'attività fisica è un vero farmaco e che deve essere prescritto con delle precise posologie, quindi quando prendiamo, non so, un antibiotico, diciamo quanti milligrammi ne prendiamo, quando facciamo attività fisica dobbiamo dire con che intensità. L'intensità rappresenta appunto la posologia, sì, e l'intensità si può evincere dalle pulsazioni che abbiamo. Quindi ad esempio se vogliamo fare diciamo un'attività fisica per abbassare la nostra pressione, dobbiamo eseguire un'attività in una fascia, no, che si chiama all'interno della soglia anaerobica. Questo corrisponde più o meno all'80% della nostra frequenza cardiaca massima. Sì. E per spiegarmi in modo sì, più sa chiaro, che io sono un po' dura, mi faccia l'esempio con i numeri che così capisco meglio. Ad esempio, considerato che per tutti la frequenza cardiaca massima è empiricamente calcolata con 220 meno l'età, sì, quindi diciamo che un ragazzo di 20 anni ha 220 meno 20 ha 200 come frequenza cardiaca massima. Sì. Se questo ragazzo volesse fare un allenamento in grado di abbassare la propria pressione, dovrebbe stare attorno all'80% di questa frequenza cardiaca massima. Sì, l'80% di 200. Di 200 fa 160, quindi attorno a 160 battiti, quindi è un'attività abbastanza intensa. Sì. No? E invece lo stesso ragazzo che volesse fare attività fisica, no, solo per perdere peso, dovrebbe stare a un'intensità più bassa, cioè stare all'interno di quella che viene chiamata soglia lipolitica, che si va a collocare più o meno al 60% della nostra frequenza cardiaca massima. Quindi sempre questo ragazzo di 20 anni dovrebbe stare al 60% di 200, quindi più o meno a 120 battiti. E quindi c'è da sottolineare come in realtà se si vuole perdere peso dovremmo fare un'intensità un po' meno intensa, mentre se vogliamo abbassare la pressione ha un'intensità un pochino più intensa. Senza dimenticarci che non dobbiamo fare solo attività aerobica, ma anche l'attività di tonificazione, quindi per potenziare, per tonificare il muscolo, è molto importante sia nel caso che nell'altro. Allora prendete nota, 800 24 00 24, se volete intervenire c'è ancora forse proprio un secondo di tempo che invece dedichiamo al professor Stefano Tirelli. Buongiorno professore, bentornato. Buongiorno a tutti. Professore, ci sono anche dei punti, c'è un punto che vogliamo segnalare alle persone che tendono ad avere la pressione alta? Sì, chiama proprio pericardio 6, sì, e va preso sulla parte interna dell'avambraccio. Quindi cosa faccio? Vedo la mia mano, vedo il palmo della mano e noto che ci sono delle linee sotto nel polso. Sì. A quel punto io col pollice opposto, quindi col pollice dell'altra mano, determino tre pressioni, una vicino al polso, una distante due pollici, una distante tre pollici dal polso. Sì. Ok? Allora, nel terzo pollice in particolare c'è proprio questo punto che, se premuto per 30 secondi, un minuto, ci aiuta ad alleggerire quegli stati di ansia e di situazioni che spesso sono con cause importanti di ipertensione. È un punto che poi viene anche stimolato con quei classici, sì, braccialettini che si trovano, certo, in farmacia, eccetera, però quello è una pressione di diverso tipo. Allora io prendo questo punto di repere, quindi sì, il punto di riferimento del polso, e pigio. Come, scusa? E pigio 30 secondi, e so che quello mi aiuta insieme a tutte le altre, ovviamente, tradizionali, certo, metodiche farmacologiche e quant'altro. Grazie, dottor Gualerzi. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.